È arrivato il momento di dare il cambio alla nuova coppia di rematori. Mago e ladro, fatevi avanti. Anche per voi valgono le stesse regole. Trascinate il dito dall'alto verso il basso, seguendo il ritmo suggerito dal suono guida. Pronti? Remate!